I lavori di domani di Anna Marino. Visualizzare è sempre più importante per comunicare, capire, recepire, trasferire i messaggi, soprattutto in digitale. Le immagini parlano e aiuta imprenditori, manager e professionisti a fare business attraverso le presentazioni PowerPoint, immagini che parlano, il Lean Presentation Designer. Guida le persone non soltanto nella parte di realizzazione grafica dei documenti, ma nella costruzione di storytelling efficaci e di presentazioni coinvolgenti, come attraverso un metodo scientifico innovativo per la realizzazione delle presentazioni, chiamato Lean Presentation Design. Ci spiega questa figura innovativa che fa risparmiare tempo e carta e rende efficaci anche le riunioni in azienda o a distanza, Maurizio Lacava, Lean Presentation Designer and Strategist. Lean Presentation Designer è quel professionista che ha l'obiettivo di portare efficienza ed efficacia nel mondo delle presentazioni. Se tu pensi a un'organizzazione strutturata dove le presentazioni sono alla base dei processi di comunicazione, spesso strategico con impatto di business, ecco, l'impresentation design in generale come metodologia permette di comunicare in maniera più efficace, quindi di arrivare a un messaggio di impatto nel più breve tempo possibile. È quello che permette di bilanciare questo trade-off che in comunicazione è molto difficile da gestire, perché chiaramente se io tipicamente voglio una presentazione più efficace probabilmente devo impiegare più risorse e più tempo. Ecco, non è necessariamente così, e Lean Presentation Design porta un mindset nuovo nel modo di affrontare questo trade-off. Ecco, la giornata tipo quale sarebbe, qual è, insomma, per capire concretamente appunto quali sono i tuoi compiti? Alla base di una buona presentazione c'è innanzitutto un'ottima capacità di ascolto. Prima di tutto tu devi capire a chi queste persone stanno comunicando, con quale obiettivo e per quale motivo ci possono essere delle resistenze ad adottare le idee della persona che stai aiutando a comunicare. Quindi portare approccio e metodologia, ma soprattutto un'ottima capacità di ascolto, è fondamentale per riuscire a comunicare in maniera efficace le idee dei tuoi clienti. Quindi buona parte di questo lavoro consiste nel ascoltare le persone nel modo in cui e cercare di in qualche modo di estrapolare il messaggio nella maniera più pura per poi riuscire a comunicarlo nella maniera più efficace. Nel mio caso particolare, poi, di tutto questo io ho fatto un po' fattor comune e ho impostato una vera e propria attività imprenditoriale, perché su questo io ho fondato la prima agenzia che si occupa di portare sul mercato questa metodologia. Diciamo che la mia giornata è cambiata molto dal momento in cui mi occupavo fisicamente di fare questo lavoro al momento in cui adesso mi occupo di insegnare a fare questo lavoro e coordinare, scalare un team che possa trasferire le competenze alle aziende e fare le presentazioni per i nostri clienti. Ecco, questo è importante perché vuol dire praticamente che non solo queste nuove competenze servono per il futuro, ma si possono anche insegnare, poiché è molto difficile trovare questa expertise, molto difficile trovare persone o luoghi che insegnino. Ecco, quali sono le competenze di base e che cosa consigli per la formazione? È una formazione che richiede competenze miste. Innanzitutto bisogna avere una comprensione abbastanza ampia dei temi di cui si va a trattare, per cui per esempio una cosa che mi ha aiutato molto è il mio background. Sono un ingegnere gestionale di background e quindi ho una preparazione abbastanza ampia da un punto di vista business, e questo mi permette di spaziare, di affrontare temi dal marketing alle vendite fino alle operation o alla finanza in maniera abbastanza agevole, il che non vuol dire avere una comprensione profonda verticale di ogni tema, ma avere una comprensione sufficiente a poter poi veicolare e valorizzare il messaggio. Bisogna sicuramente avere delle competenze di comunicazione strategica, saper raccontare un messaggio, una storia, benché alle volte il tema può essere piuttosto tecnico o complesso e magari l'audience non è necessariamente tecnica. E poi bisogna avere delle competenze di design, perché il design è quello che poi ti permette di comunicare in maniera visiva, portare in vita questi messaggi. Ora, è importante capire che il design non vuol dire fare le cose più belle necessariamente, ma sfruttare le tecniche di design e visualizzazione grafica affinché il messaggio risulti più efficace. Tu hai intrecciato la tua formazione con le competenze di base, hai raccontato come ti sei formato tu, perché comunque il percorso è la cosa più importante. Ci sono anche percorsi online magari che possiamo consigliare in questo momento di formazione, anche in questo momento in cui magari la formazione deve essere soprattutto online. metodologie io già le insegno in realtà al Politecnico di Milano, le insegno direttamente in azienda, online io ho messo a disposizione di tutti una guida completamente gratuita, completa, che io aggiorno costantemente sul mio sito ed è la guida ufficiale all'impresentation design e alle metodologie lì applicate alle presentazioni, in cui spiego in maniera molto concreta anche poi l'applicazione delle tecniche con dei veri e propri casi di studio che io affronto tramite la mia attività professionale. Dal punto di vista proprio della diciamo della forchetta di guadagno, perché poi queste professioni sono gettonate anche perché sono più remunerative rispetto ad altre che sono tradizionali, cioè qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority? È una professione nuova, quindi è difficile assimilarla direttamente a un cluster di guadagno, però quello che ti posso dire è che è una professione che nasce come attività da libero professionista, per cui il mio vecchio mentore mi ha sempre detto mangi quello che sei in grado di cacciare, di conseguenza varia molto rispetto a come tu riesci a proporti sul mercato e poi a come tu sei capace di scalare le operation, quindi chiaro è che dal momento in cui da un freelance diventa un team e un'organizzazione strutturata, il potenziale cresce evidentemente anche poi insieme ai costi, quindi non ti do un numero preciso, ma sicuramente può variare molto e può variare molto anche in funzione del lavoro, perché tu ti puoi trovare a fare la presentazione di una startup che raccoglie i primi 25.000 euro come fai una presentazione di una startup che raccoglie i primi 10 milioni di euro. È un lavoro molto ricercato, dove si può trovare, ovviamente sono le stesse aziende che ti cercano, come avviene questa presentazione di queste aziende, cioè come puoi presentarle? Sono ovunque perché il mercato è sconfinato, in realtà considera che chiunque ad oggi faccia una presentazione con un intento, quindi di persuadere un audience in generale, può sicuramente aver bisogno di beneficiare di questa metodologia, per cui da una startup che presenta un investitore a un venditore, a una multinazionale che vuole vendere, intraprendere processi commerciali, vendere dei prodotti o dei servizi, all'influenzare degli stakeholder in termini a un'organizzazione strutturata, in generale tutto questo è presentare con un obiettivo specifico che spesso ha un impatto di business, per cui in realtà il mercato è gigantesco, perché praticamente chiunque abbia bisogno di presentare e avere un impatto serio sulla propria audience. Come avviene il contatto? Diciamo che in Italia il mercato è molto molto nuovo, io ho pubblicato il primo libro sul presentation design, se tu guardi il mercato ancora è abbastanza destrutturato, lato offerta, sicuramente lato domanda le aziende stanno prendendo sempre più consapevolezza dei benefici che questa metodologia può portare loro. Quali consigli, diciamo, quali prospettive vedi nel futuro per la tua professione? È un lavoro di domani? Allora, la cosa più importante di questo lavoro è il mindset, per cui indipendentemente dal fatto che oggi noi lavoriamo con PowerPoint, con InDesign, con Keynote, con Canva, qualunque altro tool si possa menzionare, secondo me quello che è fondamentale è acquisire un mindset strategico alla comunicazione, che però tenga presente non soltanto l'efficacia comunicativa come tradizionalmente si è sempre fatto, ma anche l'importanza dell'efficienza nel realizzare queste presentazioni. Allora, una volta che si ha questa sensibilità e questo mindset, si può restare slegati dallo strumento, perché quello che io mi immagino e che vedo sempre più succedere, essendo un lavoro molto legato alla tecnologia, è che gli strumenti evolvono in maniera molto molto rapida, per cui per domani quello che io mi aspetto è che il mindset sia sempre più strutturato, che ci sia una maggior consapevolezza sul mercato e che però affrancarsi dal tool specifico e riuscire a trasferire questa metodologia al servizio dei clienti, valorizzando la loro comunicazione indipendentemente appunto dallo strumento utilizzato. Il futuro quindi lo puoi disegnare già da adesso. Mi piacerebbe farci una presentazione allora.